La marcia per il clima che stiamo promuovendo nasce ormai diversi mesi fa dall'incontro di esperienze territoriali che da anni nei territori stanno costruendo l'opposizione a un modello di sviluppo insostenibile che devasta quotidianamente la vita di milioni di persone in questo paese. Da quando siamo partiti sono successe altre due cose importanti che io vorrei sottolineare. La prima è che è uscito il report del panel delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico a ottobre di quest'anno, e quello che già si sapeva è diventato ormai ineludibile come tema, cioè che la misura è colma, che il tempo è questo del cambiamento, perché tra 12 anni potrebbe essere troppo tardi. L'innalzamento di un solo clima centigrado e mezzo potrebbe portare a delle conseguenze inimmaginabili e ingestibili, e quindi oggi c'è un'urgenza particolare. Credo che chi nei territori da anni sta costruendo le lotte e delle resistenze si stia facendo carico di una responsabilità che va molto più là delle singole lotte che animiamo. La seconda cosa è questo sciopero del clima che c'è stato venerdì scorso in tutto il mondo, che soprattutto a partire dalla nostra generazione, quella dei più giovani, ha visto un protagonismo immenso a riempire le piazze. Abbiamo visto nell'esempio di Greta che per riuscire a smuovere le coscienze, per riuscire a mobilitare le persone, c'è bisogno di una continuità lunga. Lei è andata sotto il Parlamento svedese tutti i venerdì, e proprio a questa continuità noi ci vogliamo riallacciare. Per questo saremo di nuovo in piazza sabato prossimo, perché sappiamo che non è la singola giornata di sciopero che può incidere, ma che è una lotta lunga quella che dobbiamo fare, una lotta che coinvolga ben al di là delle nostre reti solite. Queste due cose sono arrivate in un paese paradossale in cui da mesi il dibattito pubblico invece è quello di preservare a tutti i costi le devastazioni ambientali, preservare il diritto dell'Ilva a fare profitti, o della nuova Ilva a fare i profitti sulla pelle delle migliaia di persone che vivono a Taranto, preservare il diritto a bucare una montagna inutilmente per non mettere in discussione ipotetici fondi sulla pelle di chi vive la Val di Susa, in un paese in cui le priorità dal punto di vista del contrasto al cambiamento climatico e delle devastazioni territoriali sarebbero ben altre. Proprio su queste priorità ci vogliamo concentrare oggi, e abbiamo deciso di portarle qua sotto al Ministero dell'Ambiente, del Ministro Costa, perché pensiamo che bisogna indicare delle responsabilità politiche. La catastrofe climatica che viviamo non è un accidente, non è una questione slegata dalle scelte che vengono fatte, è il risultato concreto di queste scelte. Ci sono delle responsabilità politiche, non ci si può un giorno riempire la bocca con il clima e con Greta, il giorno dopo continuare a devastare i territori, continuare con le politiche energetiche che questo governo, così come quelli che l'hanno preceduto, hanno iniziato e continuano a fare. Per questo per noi l'appuntamento di sabato prossimo a Piazza della Repubblica è un punto di partenza importante, è un punto di incontro per molti, ma è anche un punto da cui vogliamo ripartire per dire chiaramente che il Movimento per la Giustizia Climatica nascerà e sta nascendo già in questo paese.